E vediamo subito un emergere di spaventose contraddizioni. Sembra quasi che il potere, il Parlamento, il governo abbiano, come dire, un andamento schizofrenico, cioè alternante rispetto al problema delle carceri. Dopo ben 5 provvedimenti svuota carcere, ricordate che poi hanno svuotato, non svuotato il carcere, però hanno un po' diminuito la presenza, era arrivate alla soglia dei 70.000, e che quella presenza più tutte altre nefandezze presenti alle carceri contro le persone recluse aveva fatto poi strillare la Corte Europea, che aveva sanzionato pesantemente lo Stato italiano per le condizioni disumane in cui versavano le carceri italiane. Tanti motivi: metri quadrati insufficienti, servizi insufficienti, ma anche la lunghezza dei processi, l'enorme quantità di persone non ancora condannate, non condannate, quindi la custodia cautelare spinta all'eccesso, cioè per tutta una serie di motivi. E quindi hanno dovuto correre ai ripari, intanto per non avere un'altra tremenda multa come era sospeso, come era già minacciata, dall'altra parte per evitare che le 6.300 fino allora arrivate richieste di rimborso da parte dei detenuti e detenute costretti in quelle condizioni, un risarcimento nei confronti dello Stato italiano, perché quello era stato accettato anche dalla Corte Europea, che i detenuti potevano richiedere appunto un risarcimento in quanto erano stati tenuti in maniera disumana. Quindi per tutte queste cose, e anche per non fare una figura barbina, come ha fatto in realtà lo Stato italiano di fronte anche ad altri stati europei, non solo di fronte alle associazioni umanitarie, a quelle persone che si occupano di diritti, ma anche di fronte proprio allo Stato, che qui da noi non l'hanno riportato, ma per esempio spesso Le Monde, giornale francese, che non è di sinistra e non è che sta dalla parte degli ultimi, dei poveri o dei carcerati, ma anche altri, Le Figaro, che addirittura è conservatore, eccetera, quando parlavano di carcere, dice: però non siamo arrivati allo stato vergognoso del sistema Italia. Questo per dire, insomma, ovunque, addirittura paesi che so come l'Algeria, insomma, paesi africani, dicevano: non siamo ancora arrivati al livello italiano della miseria italiana. Questo per dire che figura barbina che hanno fatto loro. Il problema è che non era tanto che ci interessa la figura barbina, era che le condizioni delle persone incarcerate era diventata veramente inaccettabile. E quindi hanno cominciato a fare questi provvedimenti, costretti erano a farli, e il numero dei detenuti è stato portato da 69.800, quindi quasi la soglia dei 70.000, un record per l'Italia, a 54.000 circa di adesso. Soprattutto è diminuita molto la fascia delle persone in custodia cautelare, che viene data con molta più ristrettezza, e prevalentemente vengono date non in carcere preventivo, ma le firme oppure gli arresti domiciliari. Questo è l'andazzo. Però questa faccenda, come sapete, no? Il governo, soprattutto i partiti che formano il governo, hanno bisogno di un consenso popolare, i voti, si vota sempre in questo paese, una volta tra un po' le regionali, poi ci saranno le politiche, non sappiamo quando, poi le comunali e così via. E siccome la gran parte, ormai questa, soprattutto la classe media, i proprietari, bottegai, commercianti, cioè gran parte delle persone sono stati abituati a pane e forca, come si dice, cioè sono stati abituati a dire che il problema per i responsabili di tutte le cose sono coloro che fanno i reati, non la politica sbagliata, l'assenza di fondi per finanziare questo o quel progetto, ma semplicemente una politica industriale, una politica commerciale, tutte cose che mancano, ma il problema era delle persone. E quindi hanno abituato le persone a dire che se le persone appunto che hanno qualcosa, proprietari anche di piccole cose, no? di un negozietto, di una casa, eccetera, vedono come pericolo principale quelli che fanno i reati. E allora il governo fa queste oscillazioni. È in Parlamento, dopo appunto i 5 provvedimenti svuota carceri che hanno allentato un po' la pressione repressiva che c'era, che si era sviluppata negli ultimi anni, no? Il governo Berlusconi è stato veramente, probabilmente ha superato anche il periodo fascista in quanto a carcerazione, si era arrivati a incarcerare 90-95.000 persone l'anno, adesso è un po' scesa la presenza, quindi c'era questa venta, tutto veniva criminalizzato, ogni cosa, quando c'era Maroni al ministro degli interni, ogni cosa diventava un reato, anche, che ne so, attraverso la strada. E quindi c'era questo meccanismo qui. Questi provvedimenti sulla carcere hanno provocato una protesta abbastanza forte da parte di chi? Da parte appunto di tutte le realtà proprietarie di questo paese. Sapete, queste società moderne si dividono in tanti gruppi sociali, no? Ognuno ha i suoi interessi, stanno i grandi imprenditori, i banchieri, i grandi palazzinari, però le classi numerose, le più numerose sono una classe media molto che sostiene questi regimi, no? Che sono appunto professionisti, commercianti, funzionari, cioè la gente che insomma proprietari di case, chi ha più di una casa, insomma, tutte queste persone che hanno da difendere le loro proprietà, no? O le loro attività basate su una proprietà dello studio, del lavoro, eccetera, o della casa, ecco, e sotto la fascia dei senza proprietà, grande, grossa, chiamati proletari. Quindi questi sono i due grossi numeri, che sono i due grossi numeri che poi danno il consenso, perché portano nel momento elettorale portano voti oppure non li portano. Ecco, c'è stata una accentuazione delle ostilità, chiamiamole così, tra questi due grossi settori, il grosso, la classe media e la classe proletaria. Qualcuno una volta, un disegnatore molto bravo, disegnava la piramide sociale, no? Sappiamo, le società da sempre, da quando sono sorti gli stati, quindi al tempo dei Sumeri, degli Egizi, prima i Sumeri dicono gli storici, poi sono degli Egizi, insomma si sono formati gli stati nella cosiddetta rivoluzione del Neolitico, si sono formati gli stati, quindi intorno al 5-6 mila anni prima di Cristo. E questi stati hanno raccolto interi stati, cioè delle strutture organizzative che gestivano l'intera società, e quindi sono nate le società classiste già da allora, nel senso che intorno allo Stato, quindi a chi governava tutto l'andamento della società, c'erano i notabili, le persone più ricche, quelli proprietari, eccetera. Man mano scendendo sempre meno fino a quelli che non avevano niente, e sotto a tutti gli schiavi. Gli schiavi che sono stati, come dire, il grosso gradino di lancio della civiltà, perché la grande produzione fatta dal sistema schiavistico enorme che l'umanità non aveva mai visto ha permesso che questi stati diventassero ricchissimi, quindi potessero avere grandi eserciti, e quindi sono lanciati nelle conquiste, ciascuno conquista eccetera eccetera, nella grande costruzione di monumenti di pietra, cioè che hanno bisogno di tanto lavoro e ovviamente poco pagato, altrimenti voi pensate alle piramidi. Le piramidi, sì, qualche storico dice che ci hanno lavorato anche dei salariati, però erano una piccolissima parte, la gran parte erano schiavi, soprattutto quelli che trasportavano quelle pietre. E così via, insomma, comunque e quindi sempre le società, da quando si nomina la parola Stato, sono società classiste fatte come una piramide, cioè in alto tanto ricchi, tanto benestanti, ma pochi, e via che si abbassavano le condizioni di vita sempre di più in una piramide. Qualcuno ha disegnato gli stati moderni sempre come piramide, però una piramide un po' panciuta, nel senso che al centro, quindi dove c'è il ceto medio, un po' grossa, perché il ceto medio è molto grosso in queste, soprattutto nelle società europee, nordamericane, ma adesso si sta sviluppando un po' in tutto il mondo questo processo di sviluppo del ceto medio, che permette il mantenimento dell'ordine sociale esistente, perché è quelli che hanno da perdere molto ad una trasformazione, perché hanno proprietà, stanno bene, un tenore di vita buono, al di sopra delle proprie capacità, loro sì, non gli altri. I proletari hanno condizioni di vita al di sotto di ciò che producono. Questa è l'andamento, quindi una piramide un po' panciuta. Ecco, questo per dire che c'è stata questa protesta che ha colpito più o meno tutti i partiti, tant'è vero che si sono messi all'opera e che stanno invertendo l'ordine di marcia, ossia stanno aumentando le pene per i furti e le rapine, dopo aver prodotto, diciamo, quei meccanismi svuota carceri che prevedevano anche una riduzione in qualche caso delle condanne per alcuni piccoli reati, reati bagatellari, quelli piccoli, il furto è tale, adesso stanno tornando e quindi così è in corso alle Camere il dibattito per aumentare le pene per i furti e le rapine. E questa è l'Italia. Allora 15:14 è ancora in diretta, dunque è successo il pandemonio. perché appunto qualcuno ha strillato, ha detto: avete visto, per esempio quelli della Lega, il governo è dovuto tornare indietro perché stasera aveva messo fuori tutti i delinquenti e tutte queste baggianate qua con i decreti svuota carceri. Ma il dramma è che tutti i partiti, ma proprio tutti i partiti, sono d'accordo ad aumentare le condanne, le pene per i furti e le rapine, soprattutto i furti in appartamento, che sono il pericolo, è il nemico pubblico numero uno, sono i furti in appartamento, non le violenze, gli stupri, gli assassini, ma i furti in appartamento. Questi sono il pericolo che corre quest'Italia, questo dicono. Non è che stiano aumentando tanto, ma dicono che c'è questo termine oggi, perché poi loro giocano molto sul linguaggio per nascondere i problemi reali. Dicono che la percezione, che è un termine un po' così, estremamente soggettivo, io posso avere una percezione e tu che mi ascolti un'altra, quindi c'è poco di... però dicono che la percezione della gente è focalizzata sul temere più di tutto il resto, più della guerra, più della disoccupazione, il furto in appartamento. Credo che non sia vero, è un po' una cavolata che hanno scritto, però era appunto dovuta a quella pressione del ceto medio sul fatto che avevano depenalizzato i piccoli reati, quelli fino a 4 anni, a 5 anni di condanna, quindi piccoli furti, insomma, se fatti la prima volta e da persona non incensurata, e quindi c'è stata una pressione, una critica, hanno dovuto cambiare rotta, invertire rotta. Quindi adesso vedremo di nuovo se questa cosa va in porto, e sembra di sì perché sono tutti d'accordo, ve lo faremo vedere adesso. È chiaro che di nuovo si riempiranno le carceri. Allora, il PD, il partito di governo, è pieno appoggio all'aumento, il soggetto è l'aumento delle pene più dure per furti e rapine, così dicono i giornali più o meno, dell'altro ieri tutti i giornali ne hanno parlato, e anche le relazioni del Parlamento. Il PD dice pieno appoggio, è frutto del nostro lavoro andare incontro alle richieste della gente che volevano pene più dure per i furti e le rapine. Ma non so, queste richieste della gente, forse sembra che le richieste della gente, bisogna vedere a quale gente ti riferisci, loro dicono sempre la gente, no? La percezione della gente, credo che la percezione e il bisogno reale, anche talmente chiaramente percepito, della cosiddetta gente, se ci riferiamo per esempio anche a quelli lavoratori ai livelli più bassi, è di perdere lavoro, perché molti l'hanno già perso e lo stanno perdendo, e quelli sì, che quello credo che sia il pericolo maggiore, non è vero che sia il furto. Non solo, ma non trovare lavoro, altro problema, questo riguarda tutti i giovani, e tutti i giovani lo sanno quanto è difficile, se non proprio impossibile, trovare un lavoro dignitoso, oppure la precarietà, lavorare per 3 mesi e poi essere scacciati via, e così via. Insomma, il PD ha detto difendersi, l'abbiamo fatto noi, siamo orgogliosi di questa cosa, era la richiesta della gente, quindi pene più severe per furti e rapine. I leghisti partono all'attacco e dicono sì, avete fatto bene, per fortuna siete tornati indietro rispetto a questo voler aprire le galere come avete fatto fino adesso. Non hanno aperto niente, però li criticano di aver fatto dei provvedimenti meno punitivi di come loro si aspettavano, i leghisti. Però i leghisti, paraventi, come sono dei bottegai di bassa lega, no? Loro ogni cosa che fanno è per tirarne fuori degli affari, i loro amici devono tirare fuori gli affari, però non sanno manco, è una truffa che fanno un po' tutti i politici, hanno sempre fatta, qualcuno la fa in maniera ragionata, per cui non te lo sbatte in faccia. Invece loro dicono, siccome sono cialtroni, dicono proprio siamo d'accordo, Zaia dice va bene questo aumentare le pene eccetera, però senza carceri, è solo una sparata inutile, cioè una cavolata inutile, no? Una buttata là. Bisogna rimettere in moto il piano carceri, ossia il piano per costruire nuove carceri. Sapete, il piano che aveva costruito Berlusconi quando con la Lega stavano al governo, avevano fatto riempire le carceri all'infinito, avendo anche condanne appunto a livello internazionale. Quindi avevano fatto dichiarare dal Parlamento emergenza carceri, quindi prima ci buttavano la gente dentro e poi facevano dichiarare emergenza carceri. Dopodiché quando il Parlamento ha approvato emergenza carceri, ha detto adesso si può partire col piano per costruire nuove carceri, perché la parola emergenza carceri faceva saltare tutta una serie di controlli sulle ditte che costruiscono le carceri. Sapete i controlli antimafia, anticorruzione, eccetera, che ci sono sulle ditte che quando c'è un appalto pubblico, cioè un ministero dà in appalto un edificio pubblico come un carcere, è chiaro che scattano una serie di controlli sulle ditte che prendono questi appalti, no? Quando però una situazione viene dichiarata emergenza dal Parlamento, saltano questi controlli, per quello l'hanno fatto. Siccome gli amici degli amici, cioè i palazzinari e di Forza Italia e della Lega, insomma, sono un po', come dire, hanno un po' di rapporti con questi e con quelli, criminalità organizzata, mafia eccetera, quindi gli interessava far saltare i controlli, e con l'emergenza l'hanno fatti saltare, e poi hanno detto diamo il via al piano carceri con un meccanismo, però già le casse dello Stato languivano, erano un po' vuote. Cioè, come facciamo a costruire le carceri, non abbiamo i soldi? Semplice, facciamo costruire le carceri dai privati totalmente, poi loro le affittano allo Stato, in modo che lo Stato paga un affitto annuo, non esborsa tutta la cifra per la costruzione, e pagherà sempre l'affitto. ovviamente diventando permanente quella struttura, alla fine lo Stato nell'arco di 20-30 anni pagherà 10 volte quant'è la costruzione, e lo avevano fatto proprio in funzione di arricchire i palazzinari loro amici. La Lega più o meno ricalca quel cavallo, dice va bene questa cosa che avete fatto, però se non rilanciamo il piano carceri, se non ci mettiamo a costruire nuove carceri, è chiaro che questa qui è solo una buttata, una baggianata, una sparata, come ha detto Zaia. E bisogna rimettere in moto il piano carceri, quindi cominciare a costruire carceri con quel criterio, farle costruire dai privati e poi prendere in affitto dallo Stato. Siccome la Lega c'ha dietro di sé, cioè sono tutti i palazzinari, no? Ditte che costruiscono, eccetera, questa cosa gli va a pennello, rilanciare il piano nazionale per la costruzione di nuovi carceri. E poi dice non basta, questa sempre la Lega dice va bene questa cosa che ha proposto il PD, cioè di inasprire le pene per furti e rapine, ma non basta, bisogna inasprire le pene per tutti i reati, perché poi bisogna riempirle quelle carceri, sennò che facciamo a fare, in modo che poi viene l'esigenza di costruirle di nuove e gli amici nostri fanno un sacco di soldi. Questo è il discorso della Lega, chiaro chiaro, semplice semplice. Quindi ognuno si schiera dove vuole, se non capisce queste cose che gli possiamo fare. Ecco, il PD dice che è d'accordo e quindi il governo, pensate che ha detto un certo signor Giorgio Santini del PD, il governo ha colto un allarme reale che anche il giornale di Vicenza ha lanciato. Il giornale di Vicenza è un giornale appunto della Lega e che appunto aveva lanciato, da sempre lancia, ha lanciato sempre strali e frecce avvelenate contro i decreti svuota carceri. E in questo che stavolta ha detto guardate che la percezione della gente, la gente è avvelenata per i furti in appartamento, non per la disoccupazione, per le condizioni di vita che peggiorano eccetera eccetera, ma per i furti in appartamento. Quindi anche il PD appoggia questa visione della Lega. Il governo ha colto, dice Giorgio Santini del PD, un allarme reale che anche il giornale di Vicenza ha lanciato. Così, continua Santini, c'è un effetto di deterrenza e una valorizzazione del lavoro delle forze dell'ordine. Questo è il PD, pure questi mettetevi una mano nei capelli, non è che c'è molta differenza tra loro e la Lega, come vedete, lo dicono loro, non ho aggiunto una virgola, anche perché mi fa un po' come dire ribrezzo entrare dentro questo loro, lo leggo semplicemente così come l'hanno scritto. E va bene, il Movimento 5 Stelle, l'altro terzo grosso movimento così, no? Che sta in Parlamento, il signor Enrico Cappelletti ha detto, attenzione pure questi, uno diceva questi non si oppongono, ecco, se davvero ci sarà una stretta su questi reati, che vuol dire se aumenteranno le pene per questi reati, cioè furto e rapina, siamo al furto, ecco, il nostro sarà un voto positivo. Quindi anche il Movimento 5 Stelle è d'accordo, come lo è stato sull'innalzamento delle pene per l'associazione mafiosa. Ora uno dice io non discuto quello che penso, ognuno pensa quello che vuole, ognuno difende gli interessi dei suoi amici, ma come si fa? Un discorso deve avere una logica interna, no? Ogni discorso di qualunque parte sia deve avere una struttura logica interna, cioè tutto il discorso deve filare, deve avere una sua sostanza. Se lui dice, questo signor Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle, se ci sarà una vera stretta su questi reati, i reati sono furto e rapina, stiamo parlando furto, cioè se rubi una mela, furto, quello è il furto, rapina se strappi un orologio a una persona, non siamo, queste che sono i reati, il nostro sarà un voto positivo. Vabbè, so affari vostri, però la cosa drammatica è che aggiunge come lo è stato per l'innalzamento delle pene per associazione mafiosa. Ora che ci azzecca l'associazione mafiosa con il furto semplice? Quindi questo è un discorso sballato. Mentre gli altri discorsi erano di banditi, ladroni che vogliono fare i soldi sulle scelte politiche in termini di repressione, e sia la Lega che il PD, almeno così hanno detto e così fanno, il Movimento 5 Stelle dimostra che proprio stanno, cioè, dicono nello stesso discorso di 10 parole, non di tante, che hanno fatto un librone, ha scritto 10 parole in cui non ci sono due parole che collimano l'una con l'altra, che hanno un loro senso logico. È d'accordo a inasprire le pene per i furti, così come è stato d'accordo a inasprire le pene per l'associazione mafiosa. Ora, tra la mafia e un furto di una mela, forse c'è un po' di differenza, signore Enrico Cappelletti, e chi ti ha votato pure c'ha dei problemi. Vabbè, ma ancora continua sto Cappelletti, ma prima di dire di più attendo di vedere il provvedimento nero su bianco, cioè è d'accordo, ma va bene scritto eccetera. E vabbè, queste sono, qui sono tutte Forza Italia d'accordo, tutti d'accordo, quindi siamo un po' per ma ancora poi dice la Lega continua, perché ha riempito ovviamente i giornali su quando si è parlato, quando il Parlamento ha cominciato a discutere di questo innalzamento di pene per furti e rapine, ha detto dobbiamo, va bene aumentare le pene per i furti, loro addirittura solo il furto, quindi è il furto che va colpito, il reato più minimo, per far dimenticare le depenalizzazioni precedenti. Abbiamo detto che finiti i cinque provvedimenti svuota carceri, quattro sostanzialmente, era uno, era ripetitivo, i quattro provvedimenti svuota carceri, quelli che dal 2012 al 2014 hanno un po' puntellato l'azione del governo. Attenzione, il governo ha dovuto fare decreti non a caso, proprio perché se avesse portato in aula, cioè nel Parlamento, una discussione di quei contenuti, cioè di diminuire le pene, le condanne, la carcerazione preventiva, di non usare più la custodia cautelare ma le firme eccetera, non sarebbe passato in Parlamento, eh? Quindi ha dovuto fare spinto dall'Europa, ha dovuto fare assolutamente questi punzecchiato, cioè apparentemente un coltello alla gola, perché la seconda multa sarebbe stata tremenda, e ha dovuto fare queste cose, ma sapeva che se le portava in Parlamento sarebbero state bocciate, e allora ha fatto il decreto. Poi il decreto, certo, deve essere sempre entro 60 giorni convalidato dal Parlamento, ma a quel punto il Parlamento lo convalidava per forza, perché se l'avesse bocciato il governo cadeva. Quindi a quel punto tutta l'area, la maggioranza che sostiene il governo, dopo aver fatto il governo, non lo può bocciare, altrimenti crolla il governo, e quindi anche le loro sedie diventavano, come dire, un po' mobili. E insomma... E quindi dice, dopo aver fatto quei provvedimenti, e siccome l'Europa gli ha detto però vogliamo anche qualche, e l'avete svuotato e va bene, svuotate un po', continuate a svuotarle, perché il livello è di portare a 45.000 le presenze in carcere, perché tanti sono i posti che ne detiene, che le carceri italiane tengono 45.000 posti, non di più, forse anche di meno, siamo a 54.000, quindi dovete ancora scendere, ma poi vogliamo vedere dei provvedimenti che rallentino l'ingresso in carcere, perché altrimenti fra due anni siamo da capo a 12 di nuovo con le carceri sovraffollate. Questo hanno detto i giudici europei della Corte, allora hanno, e quindi hanno dovuto fare subito dopo i quattro provvedimenti svuota carcere, hanno dovuto fare un altro provvedimento sulla i reati cosiddetti quelli piccoli, hanno depenalizzato, non è che non c'è sanzione, c'è una sanzione non penale per i reati fatti la prima volta da persone incensurate, estremamente esigui, cioè la cui condanna massima non la forbice tra massima e minima non supera i 5 anni, e soprattutto tenui, cioè di tenuità. Tenue vuol dire che non a colui che lo subisce, no? Il furto, quello che sia, in genere i furti sono, no? La piccola truffa, non porta grave nocumento, cioè tenui, quindi non solo piccoli di impatto sociale, ma anche tenui che non provocano disagio in chi lo subisce. Questo è il concetto. Questi sono stati depenalizzati, cioè la sanzione dovrà essere di altro tipo, non penale, no? Senza il carcere di mezzo. Ha fatto anche questo provvedimento, e questo gli permetteva di diminuire gli ingressi annuali in carcere, che infatti sono scesi appunto da 90.000 quanto erano a 55-56.000 ingressi annui in carcere. Questa cosa ha fatto la Lega, è messa a strillare eccetera eccetera, e mo quindi stanno tornando indietro, perché riaumentando le pene per furti sono diciamo il reato maggiore, non solo perché è il reato più basso e ovviamente più diffuso, ma anche perché nei momenti di crisi come adesso, nei momenti di altissima disoccupazione come adesso, nei momenti in cui circa, lo dice l'Istat qualche la settimana scorsa ha tirato fuori un sacco di dati, quindi sono dati ufficiali non nostri, 14 milioni e mezzo di persone vivono al limite della soglia di sussistenza, quindi poveri, poveri. La metà di questi, quindi oltre 7 milioni di persone, sono al di sotto della soglia di sussistenza, cioè non hanno difficoltà di mettere insieme, come si dice a Roma, il pranzo con la cena. Questi sono i dati dell'Istat. È chiaro che con questi dati qui, la disoccupazione che aumenta sempre, il furto diventa ovvio, si diffonde. E loro questo vogliono attaccare, non i reati gravi, che ne sono appunto la violenza contro le donne, gli stupri, le aggressioni, i tentati omicidi, quindi non gliene frega niente, gli frega attaccare i furti. Pensate come stanno ragionando. Ora, il furto in appartamenti, che è arrivato già a livelli spaventosi, non è una ora non ci mettiamo a fare gli avvocati, i giudici eccetera, però sicuramente io ho visto sentenze in cui un furto in appartamento, mettendo tutte le aggravanti particolari eccetera eccetera, viene punito con condanna superiore a una violenza contro una donna. Questa è la cultura dei governanti di questa città, cioè per loro i valori che diciamo stanno all'interno di chi gestisce, chi fa le leggi, quindi del Parlamento, chi le applica, quindi la magistratura e il governo che sovrintende a tutto questo, bene, la loro cultura è che una violenza contro una persona, nel caso particolare una violenza contro una donna, è meno grave di un furto in appartamento. Questa è la società che abbiamo, che se ci piace teniamola, a me non piace, quindi vorrei cercare di cambiarla al più presto. Allora, 15:33, per completare questo discorso sull'aumento delle condanne, questa altra sferzata repressiva, no? Innalzamento repressivo, prima di passare all'altro argomento, quello degli OPG, vediamo quest'altra vicenda. Dunque, tutto quello, l'aumento delle pene che avevamo detto e abbiamo visto prima, no? Furti e rapine, si inserisce dentro un concetto che permette di fare tutto e il contrario di tutto, cioè la strategia delle città sicure. Questa è la cosa bella che piace, se ci fanno i convegni, i dibattiti, dicono un sacco di stupidaggini, però questo è all'interno della strategia città sicure. Il buon signor Angelino Alfano, ministro degli interni, ha detto che sta preparando pezzi di carta per proporre disegni di legge che poi dovrà approvare ogni singolo comune, quindi per questo si è incontrato con l'ANCI, l'ANCI è l'Associazione Comuni Italiane, quindi con i sindaci italiani, per proporre loro che si inaspriscano le pene contro i, attenzione, parcheggiatori abusivi, i clochard, gli accattoni, i vagabondi, i venditori ambulanti, i poveri, eccetera, eccetera. Questi sono, queste persone, questi persone che ho detto adesso, questi comportamenti, sono il pericolo principale, ha detto, quello che provoca disagio e grave difficoltà alle persone nelle città. Non, quindi non sono i palazzinari, gli speculatori, i banchieri, i finanzieri, quelli che, gli imprenditori che licenziano, sfasciano, gli speculatori che hanno distrutto questa città, e ce ne stanno migliaia, migliaia di libri, gran parte scritti in altri paesi, perché tutti tengono alle bellezze artistiche che stanno in questo paese e soprattutto in questa città. È quello, lo scempio che hanno fatto di Roma, ormai si insegna nelle scuole, non qui in quelle italiane, perché qui si può parlare di questa cosa. Da noi c'è la censura totale, no? Sulle vergogne, sui banditi, ladri veri che governano questa, che hanno sempre governato questo paese, però su altri, in altri paesi dovunque trovate libri che parlano di Roma devastata, dicono sicuramente, tutti gli studiosi dicono che il danno fatto a Roma dagli anni 60 fino ad oggi è peggiore di quello dell'invasione degli Unni, dei Vandali, più che, tanto per essere chiari. E insomma, ora Angelo Alfano ha detto, e quindi con tutto il governo ha detto le città non sono sicure, nelle città c'è un grosso disagio, la gente non sta bene, è arrabbiata, incazzata, va bene, chi sono i responsabili di questo disagio? Se domandava ai bambini, alle bambine che uscivano dalle scuole elementari, loro gli dicevano: mio padre è disoccupato, l'hanno lanciato, a mio padre non gli danno il prestito alle banche, cioè sono questi, banchieri, imprenditori, governanti, che dire, sono i parcheggiatori abusivi, sono i clochard, gli accattoni, i vagabondi, i venditori ambulanti, i poveri, eccetera. E allora ha detto: bisogna riprendere la crociata contro il vagabondaggio. Ora, noi non so se Angelino Alfano ha una, non so che scuola ha fatto, non so se ha letto qualche libro, se qualcuno gli ha raccontato qualcosa. Allora, la lotta al vagabondaggio è un po' la, come dire, purtroppo l'atto di nascita, molto purtroppo, della società industriale. Insieme al carcere, la lotta al vagabondaggio, la guerra al vagabondaggio, sono state le due gambe che hanno tenuto insieme la terza gamba, ossia la nascita dell'industria. Senza lotta al vagabondaggio e carcere, l'industria non si sarebbe sviluppata. Perché? Per costringere la gente ad andare a lavorare a quelle condizioni, parliamo del 6-700, quando è partita l'industrializzazione, 13 ore al giorno, 14 ore al giorno in ambienti malsani, spaventosi, bui, freddi, con incidenti sul lavoro che ne venivano uno ogni secondo, ecco, non ci sarebbero andati a lavorare se non costretti, con la guerra al vagabondaggio e con il carcere. La guerra al vagabondaggio inizia nel 500, secondo gli storici, in Inghilterra, quando comincia a sorgere le prime fabbriche, perché le fabbriche nascono in concomitanza con l'esproprio di tutte le terre ai contadini. In Inghilterra, per lanciare l'industrializzazione, sarà necessario espropriare tutto il contadiname. Tutti i contadini sono stati espropriati, o diventavano braccianti che andavano a lavorare salariati dai latifondisti, oppure andavano a lavorare in fabbrica, non c'era alternativa. Oppure la terza via che sceglievano loro di andare a fare vagabondi, perché piuttosto di andare a fare lo schiavo in un latifondo oppure lo schiavo in una fabbrica, se ne andavano a fare i vagabondi, e sorsero bande vagabondi. Su questo c'è una bellissima letteratura, ve la raccomando, leggetela perché è molto bella, i tentativi che ha fatto l'essere umano di sottrarsi a questo diabolico meccanismo messo in piedi, no, dalla cosiddetta modernità. La fabbrica, l'obbligo di andare in fabbrica, portato avanti dagli stati attraverso la guerra al vagabondaggio, vagabondaggio e tutto il resto, quindi ha ripetuto, forse non sapendo, il signor Angelino Alfano, ciò che dicevano i questurini inglesi alla fine del Cinquecento. Il Vagabond Act è del 1597, però, quindi qualche annetto fa, e diceva le stesse cose che dice oggi il signor Alfano, però a nome del governo, quindi anche gli altri hanno una cultura infinita, gli uomini e le donne che governano questo paese, non hanno manco così sfogliato qualche libro di storia, ma così, tanto per passare il tempo. Evidentemente sono molto impegnati a farsi corrompere. Vabbè, a parte questo, ma anche e soprattutto aiutare ai loro amici a fare i miliardi. Il problema della la lotta al vagabondaggio, anche allora non è che venne detta dobbiamo fare la lotta al vagabondaggio per costringere sta gente a non lavorare in fabbrica 14 ore al giorno, se no li ammazziamo di botte, letteralmente li ammazzavano di botte, poi vi dico le punizioni che avevano i vagabondi, oppure di andare a fare i braccianti agricoli per 15 ore al giorno nei latifondi. Non hanno detto così, per carità, hanno detto già allora la lotta, la guerra al vagabondaggio, la chiamò proprio così in Inghilterra, no? la famosa bella Inghilterra, la facciamo per il decoro urbano, perché i vagabondi rovinano. Noi dobbiamo avere gente operosa che esce la mattina alle 5, va a lavorare, torna a casa, dorme, il giorno dopo è la stessa cosa, ogni tanto mangia per un morire di fame, ma non fa altro, la domenica va a messa, nelle varie chiese protestanti o cattoliche è uguale, non c'è differenza, o anche altre. Il problema è che non possiamo permettere che questa gente vada a giro libera in giro, non sono operosi, e quindi già allora passò la parola decoro urbano, che è ma anche il nazismo ha usato la parola decoro urbano, cioè i regimi peggiori, più infami, più indegni, che hanno provocato più morti, hanno usato la parola decoro urbano. Ora, qui dipende pure da noi, poi ci sarebbe tutto da vedere, perché non è passata indolore, non è che la gente si è sottomessa passivamente e alla guerra contro il vagabondaggio, alla guerra contro gli asociali, venivano chiamati così, termine ripreso poi dal nazismo. Il nazismo ha aperto i campi di concentramento, li ha costruiti, per gli oppositori politici, i comunisti e i socialdemocratici, quelli subito, ma come settori sociali, prima di tutto per gli asociali, poi dopo è venuta la cosa razzista. All'inizio il razzismo del nazismo, scusate il bisticcio di parola, ma è così, non era tanto contro le altre specie, quello è venuto molto dopo. Inizialmente era contro le persone che non tendevano al lavoro, gli asociali, i vagabondi, appunto. Quindi Inghilterra, Germania, stesso impronta, due regimi di ferro che hanno sterminato i morti fatti dal Vagabond Act, dalla guerra contro il vagabondaggio in Inghilterra. Secondo alcuni storici sono state molto più di qualche centinaia di migliaia di persone, cioè ha fatto un massacro. Le pene per i vagabondi erano spaventose, si attaccavano dietro a un carro, venivano frustate a sangue fino a che non lasciavano ascia di sangue per terra. Poi venivano trasportati da un'altra parte della regione, quindi in modo che queste bande erano gruppi, questi vagabondi, perché per campare vivevano a gruppi, venivano buttati uno di qua, uno di là, e venivano diventavano schiavi di chi li aveva denunciati. Se tu vedevi un vagabondo, lo denunciavi, questo poi veniva preso, mazzato de botte dai gendarmi, poi te lo davano come schiavo. Questa era la civiltà, è nata così, la civiltà industriale è nata così. Sono queste le nostre radici, inutili che facciamo finta di essere belli, anche se poi chi scriveva ci metteva appunto le parole decoro urbano, salvaguardia del patrimonio artistico, tutte queste stronzate, per imbecilli. Gli imbecilli credono a quello che dicono, al decoro urbano, non è una parola a cui si può dar credito, perché le peggiori nefandezze contro l'umanità sono passate dentro questa parola. L'industrializzazione inglese, ma io parlo di quella inglese perché è stata la prima, non è che gli altri paesi hanno fatto di diverso, hanno fatto le stesse cose qualche decennio dopo, identiche cose, anzi qualcuno pure più feroci, quindi non è questo il problema. Il problema è che però l'Inghilterra, siccome doveva costruire l'impero, nel mentre faceva queste cose, le raccontava con... termini idilliaci, il decoro urbano, salvaguardare il patrimonio, le nostre vestigia culturali, queste stronzate qui, no? Che si dicono sempre quando si vuole massacrare la gente. Quindi la guerra, il vagabondaggio si sta, non è ancora passata, queste due leggi, queste due cose non sono ancora diventate leggi, attenzione, né l'aumento e il raddoppio delle pene per i furti, né la guerra al vagabondaggio, però ci sta lavorando il governo, questo stanno lavorando, non rilanciare i salari, i posti di lavoro, i consumi, di questo non gliene può fregare di meno, stanno cercando di massacrare la gente, poi quindi vedete voi. Ora, questo è lo stato dell'arte, ma ne parleremo ancora, adesso passiamo all'altro argomento, quello sugli OPG. Allora, a 15:47, di nuovo in diretta, passiamo all'altro argomento, diciamo gli OPG. Sono la volta scorsa ne abbiamo parlato, la volta precedente ancora. Perché? Perché stiamo arrivando si sta arrivando al punto cardine della questione. La legge è cambiata per tre volte. L'ultima legge però del 2014 dà come termine massimo il 31 marzo, quindi la fine di questo mese, per la chiusura degli OPG. E poi appunto la nascita delle REMS, ma a livello regionale, insomma, lo vediamo un attimo. Leggiamo l'appello fatto dalla rete antipsichiatrica per la manifestazione venerdì 27 e sabato 28 a Reggio Emilia. Venerdì 27 a Reggio Emilia, allo spazio Girna, via Roma 76, alle 21 presentazione della campagna per la chiusura di tutti i manicomi criminali. Gli OPG sono anche gli detti manicomi criminali. Intervento di Giuseppe Bucalo, un antipsichiatra molto bravo, 30 anni di pratiche contro il pregiudizio psichiatrico, a seguire improvvisazione teatrale antipsichiatrica di Sabatino Catapano. Sabato 28 marzo, corteo nazionale a Reggio Emilia, concentramento in piazza San Prospero alle ore 14:30. Al termine del corteo ci sarà un saluto sotto l'OPG ancora esistente, quello di Reggio Emilia, uno dei più vecchi anche che esiste da tempo. Alle 21 un concerto, ovviamente, per finire la giornata. Quindi la giornata, cioè la manifestazione prevede due giornate, però si può anche andare, è importante il corteo che sia forte, il corteo del 28 marzo, quindi anche dalle varie città, se si vogliono organizzare pullman per andare alla manifestazione a Reggio Emilia del sabato 28 marzo alle 14:30, organizzatele. Questo è quindi il volantino che indice questi due giorni per la chiusura degli OPG. Allora, com'è la situazione? Stanno chiudendo, hanno fatto le REMS? No, sta molto tutto in alto mare, talmente in alto mare che il governo, attraverso i suoi ministri alla salute e alla giustizia, hanno, perché tutti questi due ministeri vengono interessati? Perché gli OPG, i 6 OPG attualmente esistenti in Italia, che rinchiudono attualmente circa 800-900 persone, sono ancora sotto, essendo manicomi criminali, sotto il controllo del Ministero della Giustizia. E le REMS, cioè il passaggio a livello regionale di questi internati negli OPG, va invece sotto sotto il Ministero della Salute, sotto i dipartimenti della salute mentale e DSM, dipartimenti salute DSM vanno sotto le REMS, vanno sotto il controllo dei dipartimenti per la salute mentale a livello regionale. Che cosa sono le REMS? Residenze per l'espirazione delle misure di sicurezza. Non si sa ancora bene, perché la legge non chiarisce bene come dovranno essere organizzate. Nel racconto della legge si dice che dovranno contenere al minimo la detenzione e prevalentemente utilizzare il servizio ambulatoriale, cioè queste persone, la gran parte delle persone dovranno essere dimesse, quelle dimissionabili, nel passaggio dagli OPG alle REMS, quindi dovrebbero andare a casa loro e venire ogni tanto a fare la visita ambulatoriale. Il problema è che molti di questi che stanno da troppo tempo negli OPG non hanno più una famiglia. In qualche caso la famiglia di origine non li vuole, perché nel frattempo sono cambiate talmente le persone, quindi non c'è più un rapporto. Perché negli OPG ci si stava praticamente quasi tutta la vita, si entrava per una stupidaggine e si rimaneva lì, perché finché non si veniva dimessi da una... Da un atto di uno psichiatra, di due psichiatri almeno, che devono dire che la persona non era più pericolosa né a se stessa né agli altri, e quindi poteva uscire e tornare in socialità. Il problema è che non si è verificato, intanto perché è capitato in un momento dove le regioni non hanno una lira, quindi costruire nuovi sedi per le REMS non dovrebbero avere più di 20 persone interne, quindi piccole. Come dovranno sostituire gli OPG? Dovranno avere la gestione sanitaria prevalentemente, cioè perché non stanno più sotto l'egida del Ministero della Giustizia, ma sotto quello sanitario. Però c'è il meccanismo della residenza coatta per le persone che ritenute che, insomma, che possono dare in escandescenza. La situazione è ancora molto contorta. Il problema è che in questo passaggio la chiusura degli OPG poteva essere un fatto importante, un passaggio storico, se veniva tolto il meccanismo del controllo psichiatrico di queste persone. Queste persone sono andate a finire dentro l'OPG perché appunto ritenute inferme di mente, così genericamente, no? Con i vari accezioni, attributi in più che si mettono, e poi una volta là dentro, in situazioni drammatiche, si stanno su YouTube, se li cercate, cercate appunto OPG, ospedale psichiatrico giudiziario, escono dei filmati allucinanti a dir poco, e quindi è chiaro che è difficile, lì dentro si migliorava, soprattutto ci si incazzava, e quindi ed era difficile che poi uno psichiatra ti metteva in dimissione perché ritenuto appunto che potevi stare tranquillamente con gli altri. Comunque la situazione attualmente, mancano pochi giorni al 31, è questa: il 31 dovranno chiudere questi OPG perché il governo dopo 3 rinvii non ne può fare un quarto, farebbe la solita figura di Peracottario, quindi non lo può fare, e allora verranno sistemate delle situazioni provvisorie. Per esempio in Toscana verrà ripristinata un reparto del carcere di Volterra, vecchio e famoso carcere di punizione, che era un reparto abbandonato da tempo, riaggiustato minimamente e messi lì questa REMS fatta là dentro, insomma, non so come, e poi vabbè, la legge dice pure che per le persone dimissionabili o comunque per quelle non pericolose, si può, invece che dentro le REM, si possono anche ospitare in case famiglie, e allora la regione appunto toscana che si sta occupando dello smantellamento di Montelupo Fiorentino e quindi l'apertura delle REM, sembra che si stia orientando per 2 case famiglie a Siena e Arezzo. Vabbè, e poi insomma situazioni intermedie le chiamano così. Tutto questo perché non sono pronti, non ci sono i soldi, non hanno messo in costruzione queste REMS, e poi perché la legge non spiega esattamente cosa dovrà avvenire in queste REMS. E insomma, la cosa è complicata, è contorta, perché hanno fatto una legge fatta sotto l'emotività, perché quando sono uscite fuori queste scene girate nell'OPG di Barcellona, Bozzo di Cotto in prevalenza, e anche in quelle di Aversa, erano spaventose, e l'indignazione è salita, quasi tutti i parlamentari hanno detto ma noi non sapevamo che in Italia c'era sta cosa, allora andate a fare un altro mestiere, va a fare il meccanico, no? Va a fare l'elettricista, se fa il parlamentare dovresti sapere che succede nel paese di cui sei rappresentante del popolo. Vabbè, a parte questa, è inutile di ste cose perché questi cialtroni li conosciamo bene. Allora quindi non si sa bene come dovranno funzionare queste REMS. Quello che si sa è che mantengono il meccanismo del controllo psichiatrico, cioè continua a valere il fatto che sia dagli OPG che dalle REMS l'uscita dovrà essere convalidata da uno scritto di 2 psichiatri. Quindi il controllo psichiatrico su queste persone permane, e questa cosa è un disastro perché crea un problema. Intanto un problema che la psichiatria vuole mantenere il controllo sulle persone, perché ne va della loro, di questa casta di psichiatri, ne va del loro prestigio, e come fatto secondo non vogliono rischiare, perché se uno psichiatra dimette una persona, poi questo fuori fa qualunque cavolata, figurati, va via, i giornali se lo mangiano, eccetera. Insomma, in realtà gli psichiatri poi sono dei, si ritengono medici, ma hanno non tanto un camice bianco quanto una divisa da secondini, perché in realtà mantengono la gente in carcere, e l'OPG è molto peggio del carcere, questo se vedete YouTube lo capite da soli senza che nessuno ve lo spieghi. L'altro problema grave è che molti sindaci, siccome dovranno essere diffuse sul territorio queste REMS, perché ciascuna non può avere più di 20 persone, molti sindaci non li vogliono. Non vogliono le REMS nel proprio territorio, e lì tirano fuori però dei pregiudizi di tanti centinaia di anni fa, però ancora oggi quelli più stupidi: non vogliamo i matti da noi, come se fossero sani quelli che governano questi comuni. Vabbè. Insomma, e poi ci sono delle regioni che non ci hanno mai avuto ospedali psichiatrici giudiziari, e le dovranno avere invece le REMS, perché adesso le REMS saranno, cioè ciascuno rientrerà nella propria regione di origine, e quindi queste 800 persone verranno dislocate, che sono tante in Friuli, in Veneto, queste in Piemonte, che non hanno mai avuto OPG, e quindi dovranno farsi carico anche di una di un lavoro che non hanno mai fatto queste regioni. Vabbè, insomma, la situazione è questa. Noi ne parleremo ancora, perché mercoledì prossimo siamo a ridosso di questa chiusura. Però il governo ha deciso di non dare un'altra proroga, ma di utilizzare appunto le situazioni intermedie, come appunto hanno fatto con Volterra, cioè di appoggiare, chiudere gli OPG perché vanno chiusi, perché il terzo rinvio la figura ci hanno già fatta, farne ancora una più grossa non si può fare, e quindi appoggiarle in dei posti staranno pure peggio appoggiati da qualche parte, in attesa appunto di fare le REMS, queste qui altre. Queste nuove situazioni. Questo è il quadro. Quindi poi il problema è che questa legge non ha fatto il passaggio necessario, perché la gente nell'OPG ci va in base ad una norma del codice penale. Cioè il codice penale dice: se tu sei infermo di mente, hai fatto una rapina, un furto, io non ti punisco, ma ti mando in misura di sicurezza ad libitum, cioè per sempre, fino a che non ti mettono fuori, in un OPG. Hanno cambiato, hanno detto l'OPG va chiusa, ma non hanno cambiato quella parte del codice penale che tratta gli infermi di legge. Quindi diciamo la misura di sicurezza, che diventa reclusione, che diventa che rischia di essere perpetua, non è stata toccata. Questo è il problema degli OPG. Ricordiamo che